marinara, l'amore è dolce ma non si impara, se si dice mai. Se la bocca ignara con l'altra bocca che è più cara, baci non si dà. L'una racconta al mondo che cos'è l'amore, fa che stanotte ogni cuore si stringa ad un cuore. L'una marinara, l'amore dolce ma non si impara, se si dice mai che notte d'incanto sopra i giardini in fiore piove argento, azzurro il mare di cobalto il manto del firmamento. Luna marinara, l'amore dolce ma non si impara, se si dice mai.